Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Vallo a buca perché t'ammazza cani. Sì, è lì, ma non lo so, si muove ancora, guarda un po'. Dietro la pianta. È morto? È andato? Quante ne hai tirato, Luciano? Due. Anch'io, uguale. Due. Questo devono ammazzarlo perché fa fuori i cani quando è così, eh? Com'è, grosso? Ma... ragazzi, fa ammazzato, non lo fate straziare così, povera bestia. Ma uno va a tirarli, non c'è. Questo ci è venuto bello, è venuto dritto, proprio dritto, bello. Dopo raccolgo bossoli, che li vedo, sono tutti così. Ma che non ci sia uno che gli vada a dare una... Madonna, fate qualcosa. E te li apre, tre te li apre tutti. Se c'ha denti... Ecco, finalmente hanno trovato il cacciatore coraggioso che si avvicina al cinghiale morente e gli dà il colpo di grazia. Voi direte che strazzo uccidere il cinghiale, perché l'hanno ucciso? Perché se si avvicinano i cani da cinghiale al cinghiale morente, il cinghiale ha delle zanne che sono dei rasoi, li apre come se fossero delle bucce di banana. I cani aperti dal cinghiale camminano e gli escono fuori gli intestini, non è nemmeno un bello spettacolo. Chi va a caccia di cinghiale sa che bisogna portarsi dietro sempre ago e filo, e nel caso che il cinghiale ti aprisse il cane devi velocemente richiudergli la pancia, sennò è brutto vedere il cane con le budella che se le porta indietro. Vi fa più tenerezza il povero cagnolino aperto con le budella di fuori o vi fa più tenerezza il povero cinghialetto fucilato? Perché vi dico questo? Perché io già in passato toccai una questione delicata che mi incuriosiva. Mi incuriosiscono le variazioni, le mutazioni, le derive della percezione generale rispetto ad alcuni, a qualunque tipo tema possibile. Quando ci fu una richiesta di derubricazione dei poveri coniglietti da animali da carne a animali domestici, mi interessò la cosa e infatti scoprì un dato molto interessante. C'erano persone che allevavano conigli con lo stesso amore e la stessa cura con cui si allevano gattini, cagnolini. Davano al coniglio una dimensione di animale domestico, quindi umanizzato, umanizzabile, quindi non commestibile. Consideravano orribile il mangiarsi un coniglio. Siccome i tabù alimentari sono alla base di ogni pratica religiosa, di moltissime pratiche religiose, Mi piaceva e mi interessava capire questa deriva della percezione sociale nell'Occidente avanzato e post-industrializzato, che si ricreava dei nuovi tabù alimentari rispetto al coniglio. Oggi la notizia è di tipo diverso, si parla sempre di animali a cui bisogna salvare la vita e si parla di cinghiali. I cinghiali, nella mia percezione rozzo-umbra, ancora sono animali da carne, fantastici, temerari e furiosi animali che i cacciatori cacciano con una caccia che ha comunque un suo ancora retaggio ardimentoso, perché il cinghiale, vi è mai capitato di avere un cinghiale di corsa vi passa vicino? A me è capitato, fa paura, sembra una palla da fucile, fende la boscaglia e la sterpaglia, sembra di non si capisce bene, vedi questa cosa nera velocissima che corre. Un'altra volta, una sera, vidi un cinghiale che mi arrivava con il muso all'altezza dello specchietto retrovisore della macchina. Passavo una stradina notturna attraverso una piccola macchia mediterranea e vedi questo cinghialone enorme, più grande della mia automobile. Per un attimo ci guardammo, capito? Fu un confronto fantastico. Vidi lui veramente quello che è la fiera che racchiude in sé tutto lo spirito della terra, della boscaglia, via dicendo. Comunque, il cinghiale a me piace molto, piace sotto forma di pappardella, piace sotto di condimento la pappardella, piace sotto forma di prosciutto, di salsicce, via dicendo. Ma posso anche cambiare idea se qualcuno me la fa cambiare. Vedo una foto questa mattina sul Corriere della Sera, da ampia cronaca questa notizia, con delle persone vestite da cinghiale con dei cartelli al collo: abbiamo paura, anche noi abbiamo i nostri cuccioli, salvateci, e via dicendo. Una manifestazione è stata fatta nella centralissima piazza della Repubblica a Firenze, al centro di Firenze, di una serie di persone che vogliono salvare la vita a un numero enorme di cinghiali, fra cui anche daini, caprioli, spalle 250.000 capi, che vanno abbattuti. È necessario abbatterli perché ormai stanno creando un problema di sovrappopolazione. I cinghiali, o essere fiere belve, sono anche dei fieri copulatori, evidentemente. Si sono espansi, i cinghiali sono un problema per l'umanità, per la popolazione civile, quindi si pensa di abbatterli. Per abbatterli hanno trovato che la formula migliore, 1+1=2, chiamate tanti cacciatori, almeno si sfogano, abbattono i cinghiali e vanno a caccia e via dicendo. Ma su questo, che è considerato una sorta di genocidio, una sorta di fucilazione di massa, una decimazione, uno sterminio, una cosa inumana, si sono levati un gruppo trasversale, non politicamente connotato, perché prima fra tutti c'è Battiato, che tutto può sembrare, meno che un buonista per eccellenza, però lui ha scritto una canzone sul cinghiale bianco, antico simbolo tellurico. Probabilmente pensando che in quei 250.000 possa celarsi il cinghiale bianco, assieme a Dacia Maraini, a Bollani, a Giorgio Panariello, a una serie di intellettuali, di metra pansè, di artisti, hanno fatto una sottoscrizione per non sterminare, almeno in maniera così crudele, questi cinghiali. Beh, questo è l'argomento del giorno. 800 24 00 24. Volete anche voi salvare il fratello cinghiale? Melog, cronache meridiane. No, perché dice che invece di fargli sparare dai cacciatori devono introdurre dei predatori dei cinghiali. Cos'è il leone? Chi è che ammazza il cinghiale? Beh, i predatori sono due per eccellenza. Sì. Sono Asterix e Obelix. Hai due... Sì, sì, hai presente i banchetti, sì, sì, che sì, fanno alla fine di ogni qui albo. Altri cacciatori, però. Cacciatori, certo. Cioè, il cinghiale non l'ammazza nessuno, solo il cacciatore. Asterix e Obelix. Che oggi saranno quelli abbrutiti che vanno col fucile lì in Toscana. Oh, ammazziamo il cinghiale. Però, scusa, vuoi dire... Siamo in onda. 800 24 00 24, stiamo trattando la questione delicata del possibile sterminio, fucilazione di massa da parte dei cacciatori, che non vedranno l'ora, stanno lì già a lucidare i fucili e a preparare la cagnara per questi 250.000 capi, tra cui anche soprattutto cinghiali, poi però capirò nella precisione, che secondo una norma voluta dall'assessore all'agricoltura Marco Cremaschi dovranno essere fucilati. Naturalmente c'è stata una protesta generale, parte da alcune associazioni maliste, parte da alcuni intellettuali, però è stata anche, diciamo, appoggiata dalla LAV, la Lega Antivivisezione per Animali Selvatici. Abbiamo al telefono Massimo Vetturi, vuoi capire il vostro punto di vista rispetto a questo problema, poi sentiremo l'assessore che ha voluto fare la legge. Qual è l'alternativa per, diciamo, il ripristino di un equo equilibrio in quella zona, se non uccidere questi cinghiali? Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto, buongiorno. Dunque, i cinghiali sono animali selvatici, al di là poi delle rappresentazioni anche fumettistiche con Asterix e Obelix. Come tali, come dire, vivono nell'ambiente selvatico, che è un ambiente che oramai da parecchi anni l'uomo invade quotidianamente. Lo invadiamo con le nostre strade, con le nostre autostrade, con i trafori ferroviari, con i nostri centri commerciali, con le villette a schiera e via così, cose che possiamo verificare quotidianamente. È ovvio che, come dire, violando territori che fino a ieri erano elettivi esclusivamente degli animali selvatici e di poche persone, di pochi nuclei urbani arroccati magari in qualche collina, qualche montagna, è ovvio che aumentano, come dire, i casi di confronto e che poi possono portare questo a delle conflittualità. Questo fa parte della civilizzazione, secondo me. Certo, non lo so. È normale, certo, che le città si allargano. Qui accanto c'è l'esquilino, probabilmente 1000 anni fa era pieno di cinghiali, oggi ci sono i cinesi. Il progresso, purtroppo, nei limiti che è, conquista zone impervie e selvagge e ci costruisce città. Quindi, certo, questi cinghiali si sono trovati improvvisamente espropriati del loro territorio. Si sono trovati espropriati del territorio a confronto con l'essere umano, che si espande sempre di più e che anche l'essere umano risponde poi alle logiche, così mi passi un po' il romanticismo, di madre natura, cioè la capacità portante del territorio, che invece è un concetto molto scientifico, determina quanta soggetti di una certa popolazione di animali possono sopravvivere su una certa superficie di territorio, ed è una legge assolutamente trasversale. Colpisce noi umani, perché se siamo qui, diciamo, dove ci troviamo, in Occidente, in Italia, evidentemente siamo 60 milioni, 70 milioni, la capacità portante del nostro territorio è tale per sostenere questi 70 milioni, nel deserto del Sahara la capacità portante è così limitata che sicuramente sono molti di meno. Stessa cosa avviene per i cinghiali: nel momento in cui i cinghiali vivono in un ambiente altamente popolato e altamente soprattutto sfruttato dal punto di vista agricolo, è chiaro che le risorse per qualsiasi animale selvatico, compresi i cinghiali, aumentano a dismisura. I cinghiali si trovano, come qualsiasi altro animale selvatico, di fronte a dei supermercati a cielo aperto, aperti 24 ore su 24 tutto l'anno. Per loro è una pacchia, diciamo la verità, è una pacchia adesso. Per loro è una pacchia. Lei pensi, io su qualche anno sono stato al mare a Populonia, lei conoscerà forse la zona, che è un bellissimo paesino arroccato sulle impervie rocce sul mare vicino Piombino. La sera ci affacciavamo dalla finestra dell'albergo dove stavamo, davo mangiare a una famiglia di cinghiali che veniva lì a prendere da mangiare dai turisti. Ma come dar da mangiare ai piccioni a Piazza San Marco, era la stessa cosa. Infatti. Che poi, vede, c'è questa dicotomia, no, per noi esseri umani. Da una parte c'è qualcuno che ne vuole uccidere 250.000, un quarto di milione in 3 anni, e dall'altra ci troviamo a dargli da mangiare come i colombi in Piazza San Marco. Beh, ma era divertente, nei cinghialettini comunque piccoli. Comunque siamo attratti, no, alla fine, sì. Questa selvaticità, questo cinghiale descritto con le sue zanne che ammazza la gente, che semplicemente difende magari i suoi piccoli. Sì, beh, io non le consiglierei di passarci vicino a un cinghiale quando No, potre. Ci ha raccontato la sua esperienza, ho avuto anch'io la mia esperienza. Devo dire che a me evidentemente è andata bene, perché mi è bastato fare rumore e sono scappati via, era una famiglia completa con 3 piccoli, quindi... Vabbè, andiamo al punto, cioè, abbiamo fatto una premessa, adesso vogliamo capire. Al punto l'uomo ha sbagliato tutto, sono secoli che sbaglia, dicendo su questo siamo pienamente d'accordo, però ci sono 250.000 cinghiali che rappresentano comunque un problema. Si fermi un attimo, Alfonso, così capiamo anche l'entità del problema. Alfonso, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Andiamo al punto, Alfonso. Andiamo. Ho una piccola azienda agricola nella Val Bisenzio e... È la zona cinghialata? Certo, non riesco a coltivare niente. Ma perché non mette su una macelleria, scusi, e cambia attività? Ma non si può ammazzare il cinghiale così, eh? Ah, ho capito. Allora, per ammazzarlo ci vuole tutta una serie di cose, io tra l'altro non so nemmeno. Ma comunque cosa fanno i cinghiali alla sua piccola azienda? Dunque, l'orto me lo distrugge completamente. Dove pianto ulivi, o li mangia o li distrugge. Perché è onnivoro, il cinghiale mangia tutto, come il maiale, basta. Mangia tutto, lui poi... con quel nasone va a scavare il terreno e butta all'aria tutte le piante, perché vanno alla ricerca... con quel nasone, però è simpatico. Sì, di radici, cose del genere. E mangiano tutte, hanno un sacco di tempo a disposizione, hanno tanta fame. Quindi questo problema è la devastazione, diciamo, delle aree agricole che voi lamentate. Sì. E nessuno prende... Sentiamo Rosanna. Rosanna, buongiorno. Buongiorno, allora io abito in un parco naturale che è Monte Marcello, in provincia di La Spezia, meta di molti turisti, ma sicuramente noi siamo veramente inondati dai cinghiali. Noi li abbiamo per il paese, li salutiamo, vengono a rare i nostri orti, i nostri giardini. Ma quindi sono addomesticati come cagnolini? Una parte sì, ma una parte no. Quindi quando c'è la... Cioè mamma, voi li accarezzate, li toccate, non mi dica questo e non ci posso credere. No, perché poi chiaramente sappiamo che è un cinghiale. Beh, c'ha quei dentini che fanno paura, è un palmo di zanna. Ma avrebbe voglia di vendargli vicino, ma poi lasciamo perdere molto volentieri. Lei è tentata a dare una carezza al cinghialetto? Sarei tentata, ma lo farei volentieri anche fuori. Stacca un braccio. Noi ragionavamo l'altra sera e dicevamo, se noi avessimo una bella balestra adesso, non dico un'arma... Però insomma, farci delle salsicce non sarebbe male, perché ne abbiamo talmente tanti. Quindi vi state industriando con sistemi arcaici come la balestra di azzeccarne qualcuno e fare una sorta di macelleria casalinga, farvi salsicce, fregatelli, prosciutti. Sì, non sarebbe una cattiva. Io sono assolutamente discriminante. Cioè, il cane lo conosco, il vicino di casa, il gatto. Il cinghiale non ho questa confidenza, ma so che mi dà tanto danno. Quindi, insomma, se io con la macchina è pieno di curve in Montemarcello, ne incontro uno dietro una curva, insomma, la macchina me la disfa. Quindi poi chi me la paga? Oppure il giardino che hai appena messo a posto, i bulbi, arriva il cinghialotto e te lo trovi completamente. Allora, fermatevi un attimo, torno a Massimo Vetturi, perché oggi ho molti ospiti, responsabile della LAV. Che esista un problema, penso che sia innegabile. Qual è la soluzione che proponete voi, non cruenta, con una sorta di che ne so, eliminazione umanistica, non ho capito bene, oppure portarli, come qualcuno mi suggerisce, in dei luoghi dove serve il ripopolamento? Ma come si catturano i cinghiali, come si trasportano? Un'emigrazione forzata, non so, non vedo soluzioni. No, sicuramente quello che è certo è che la caccia non è la soluzione, e non lo dico io, non lo dice la LAV, ma lo dice ormai la scienza, è perfettamente consapevole che la caccia non è una soluzione, ma perché nemmeno un battaglione con le mitragliatrici, 250.000 sono tanti, quanti ecco, cacciatori ci vogliono? Per assurdo. No, prendiamo atto di quella che è la situazione odierna, il cinghiale è specie cacciabile da sempre, e se ancora oggi siamo qui ogni anno a dire che sono sempre di più, che sono sempre un problema, che i problemi si incrementano, sempre più danni, sempre più incidenti, e i cinghiali sono regolarmente cacciati praticamente tutto l'anno, allora dico, evidentemente, lo capirebbe un bambino di terza elementare, sono rincoglioniti i cacciatori. Non è la soluzione questa, non è questa la soluzione, bisogna trovare un'altra soluzione. Quello che posso dire è che c'è stato un recente ed interessantissimo convegno il primo dicembre. Sì, poi vuole una risposta concreta. Qual è la soluzione? Ci sto arrivando. Un interessantissimo convegno tenutosi a Bologna lo scorso primo dicembre presso la sede della Regione Emilia-Romagna, in cui hanno partecipato le migliori menti, diciamo, scientifiche, in testa l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ente nazionale. Ma cosa hanno deciso? Proprio in Liguria il problema degli orti, che è un problema molto limitato rispetto all'agricoltura. No, scusi, mi dice la soluzione. Ho capito, la premessa. La recinzione elettrica. In Liguria hanno risolto problemi sui terrazzamenti, quindi anche un ambito molto difficile. Cioè recintare le aree popolate, e diciamo con il filo, cioè invece che lo sterminio è un campo di concentramento, questa è la soluzione. Più o meno è quello. È un campo di concentramento per cavoli e finocchi e altre verdure, perché sono i cavoli e i finocchi che stanno all'interno del campo, i cinghiali restano all'esterno. Quindi recintare i campi con la rete elettrificata, ecco questo. Non pensiamo a 20.000 volt, cose del genere. Quello sì, è quella che usano per gli allevamenti. Quelli di alta montagna dell'Alto Adige. Che poi se la tocca un ragazzino non è che gli dà gusto. Le mucche, diciamo, all'interno. Vabbè, fermiamoci un attimo, dare la linea un attimo al traffico. La soluzione è, invece che sparargli, fatevi delle recinzioni elettrificate, delle zone che volete preservare. Oddio, mi sembra che quando cominciano ad essere centri urbani abitati non è che possiamo vivere dentro un recinto elettrico, però qualcuno mi illuminerà anche su questo, ma tra un istante. Melog, cronache meridiane. È un grosso problema quello di 250.000 cinghiali soltanto in Toscana, ma ci scrivono da tutta Italia dicendo che il problema cinghiale sembra essere ormai un'emergenza avvertita in moltissime altre regioni. Il vero problema, come ci diceva il signore della LAV, è che non basterebbero comunque cacciatori per eliminarli tutti quanti, ma propone un'altra soluzione, una rete elettrificata a presidio delle zone coltivate. Ma a questo punto andrebbe messa a presidio di qualunque area accessibile a esseri umani, visto che ormai i cinghiali sconfinano. Non è colpa loro, siamo d'accordo, colpa nostra, abbiamo invaso il loro territorio, ma mi viene da pensare, una volta chiusi in una specie di recinto elettrificato, questi continueranno a farsi le cinghialesse, continueranno a fare tanti altri cinghialini e crescerà ancora di più il numero dei cinghiali. Gianluca Dall'Olio, buongiorno. Buongiorno a lei. Presidente della Federcaccia. Sembra che il problema sia che i cacciatori non ne hanno ammazzati abbastanza negli anni precedenti e quindi sono cresciuti a dismisura. Come si difende? Ma io credo che se se non ci fosse l'azione dei cacciatori il problema sarebbe ancora più drammatico per l'agricoltura e per l'ambiente anche. Quindi io credo però che la questione possa essere risolta solo e esclusivamente con interventi mirati là dove il danno esiste. E quindi ma in Toscana mi sembra che l'hanno già in qualche maniera valutato il danno. Le faccio una domanda tecnica: 250.000 capi da abbattere, quanti cacciatori servirebbero e in quanto tempo dovrebbero operare? Per assurdo, però, se è possibile avere, così ci rendiamo conto anche noi della fattibilità comunque. Il dato, innanzitutto il dato più attendibile che riguarda la Toscana, sembra che siano i circa 70-80.000 cinghiali all'anno abbattuti attraverso l'attività venatoria legittimata dai calendari venatori stessi. Quindi in 3 anni sono 3 per 8, 24, sono 240.000, questo è il dato ufficiale della Toscana. Diciamo che in 3 anni risolvereste il problema, questi continuano però a fare figli nel frattempo. Io credo che il problema debba essere risolto attraverso, quando c'è una specie che è ovviamente in abbondanza, per delle ragioni legate più soprattutto a ragioni ambientali, quindi l'abbandono, la crescita del bosco rispetto alla coltivazione. Sì, questo abbiamo capito, che è un problema, lo sappiamo. L'emergenza del cinghiale dura ormai da qualche anno in questo paese, quindi è poi un'emergenza anche europea. Ma lei pensa, io mi ricordo quando ero piccolo, i miei amici cacciatori andavano in Jugoslavia a cacciare il cinghiale, non c'erano in Italia, ma le parlo di 30 anni fa, 40 anni fa, non c'erano certo cinghiali in Italia allora? No, esistevano già i cinghiali. Ma pochi erano? In Toscana il cinghiale marimano ovviamente che non esiste più, infatti sono tutti ibridati, però la Toscana ha cinghiali da millenni, insomma, quindi in Maremma in particolare. Però si spostavano i cacciatori per andare in zone più ricche di caccia di cinghiale. Questo è un fatto che può essere avvenuto, però il cinghiale da 40 anni ha popolato anche regioni come... Poi mi faccia capire, scusi Presidente Dall'Olio. Prego. Lei ha detto che normalmente i cacciatori ne cacciano un 70.000 all'anno. Ma se il problema... In Toscana. Se il problema è così emergente, bisognerebbe organizzare una super battuta e risolvere, diciamo, fare il lavoro nel giro di pochi mesi, perché se no continuano a riprodursi, visto che non è più sufficiente un abbattimento di 70.000 capi all'anno. Bisognerebbe fare una mega battuta intensiva, dico termini probabilmente non esatti, e risolvere il problema a qualcosa che somiglia veramente alla necessità di uno sterminio. Perché... No, io credo che non si possa parlare, non si debba parlare di sterminio, primo. In secondo luogo occorre fare interventi mirati, ripeto, là dove il danno esiste, senza distinzioni fra area e area, fra aree protette e aree non protette, perché è chiaro che se non si interviene nelle aree protette, ovviamente non attraverso l'esercizio venatori, ma attraverso un controllo fatto da persone preparate e ovviamente legittimate a farlo, la cosa non si risolve. Ripeto, il danno va tolto là dove esiste, l'intervento mirato va fatto dove esiste il danno. Allora, mi fermi un attimo, il presidente Federcaccia ha espresso, diciamo, la sua soluzione, come ha espresso la soluzione il signore della LAV. Vediamo se è possibile avere una terza parte che ci dia un parere al di là, diciamo, delle parti che più o meno per vocazione, per missione, per professione, per sport possono essere interessate. Andrea Monaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Allora, Andrea Monaco è l'esperto di gestione faunistica, funzionario agenzia Regione Parchi del Lazio, è al di fuori, diciamo, da questo problema territoriale, ma conoscerà comunque il problema. Esiste una soluzione congrua che non sia la rete elettrificata oppure, diciamo, l'intervento massiccio di tanti cacciatori? Ma il problema è complesso e le soluzioni sono complesse. Questo è un primo messaggio che secondo me deve passare. Non esiste, e questo l'abbiamo capito da tempo, tra tecnici, tra scienziati che si occupano di questa cosa, sia a livello nazionale che internazionale, non esiste una ricetta, non esiste una soluzione. Esistono soluzioni complesse, anche dei margini di insuccesso. Esistono sicuramente delle cose che non funzionano perché non sono praticabili, per esempio la sterilizzazione di massa di questi animali. È quello che propongono gli artisti, è un po' difficile però secondo me. Impossibile, non è. Diciamolo subito, è impossibile la sterilizzazione di massa. È impossibile da un punto di vista pratico attualmente per motivi di carattere ecologico e anche per dei costi insostenibili. Ma loro parlano di mangimi sterilizzanti, ma esistono? Non si può utilizzare, perché su un esempio poi insomma sì. rischia di diventare un discorso tecnico, questi mangimi non sono specie specifici, altre specie potrebbero cibarsene. Sterilizzano anche i cavalli, le galline. Quindi, tutto. No, lo dico perché Dacia Marini magari non lo sa, lei aderisce, bisognerà spiegarglielo che il mangime sterilizzante non funziona. Certo. Altri predatori che mangiano i cinghiali, a me viene l'orso, cos'è che mangia il cinghiale? Allora, diciamo il lupo nel contesto nazionale. Ah sì, poi dopo i lupi come ce la mettiamo? Perché anche peggio. I predatori non sono una soluzione, questo ce lo dice chiaramente da sempre la scienza. I predatori possono limitare una popolazione in specifiche situazioni, ma non possono affrontare una marea di animali. Però mi scusi, visto che già delle persone illuminate sono scese in piazza a Firenze vestite da cinghiale proponendo il mangime sterilizzante che non è usabile. Il predatore, per paradosso, bisogna prendere un tir di lupi e sguinzagliare i lupi per la Toscana. Quale sarebbe ma la soluzione? I lupi, a parte che i lupi non sono mai stati sul territorio, ma è una specie che negli ultimi anni ha migliorato il suo stato di conservazione, si è espansa su tutte le Alpi, sta benissimo, anche aiutata dalla presenza del cinghiale, non ce lo dimentichiamo, perché il cinghiale noi ne parliamo oggi come un problema, ma è anche un importante elemento del patrimonio faunistico ed ecologico del nostro paese. Però va, okay? Che vada regolamentato, su questo siamo d'accordo, mi pare. Non ci piove. Noi sì, ma io volevo, sa perché, scusi, sono un po' incalzante, che volevo smontare le soluzioni che sono soltanto belle, romantiche e via dicendo. Il mangime sterilizzante non esiste. Seconda, il predatore mi sembra molto poco probabile che si possano, per assurdo, portare tanti lupi, poi ci sarebbe una guerra fra lupo e cinghiale, sembra quasi un conflitto epico fra lupo e cinghiale, ma poi dopo come la mettiamo con i lupi? Dopo fate, salviamo il fratello lupo, perché fra un anno avremo il problema dei lupi sguinzagliati per le strade, o sbaglio? Per assurdo, certo. No, ma lei ha correttamente individuato la problematica. No, perché ha scritto sul Corriere della Sera, qualcuno l'ha detto, usiamo i predatori, usiamo il mangime. Sì, quindi però sono noi dobbiamo cavolate. Però, vede, sono tutte posizioni. Io capisco anche perché sono posizioni, come posso dire, che vengono proposte anche sulla idea di un timore, un approccio di carattere etico a una problematica. È giusto, okay. Allora ha ragione Buttafuoco che prima col pragmatismo Buttafuoco in un fuori onda ha detto ci vuole Asterix o Belix, cioè è il paradosso, qualunque paradosso va bene, chiamiamo Godzilla, il raggio laser, non lo so. Infatti noi dobbiamo Chuck Norris, non so chi, pensandoci bene, senza ragionare con la pancia, ma ragionare con la testa, pensare a soluzioni tecnicamente sostenibili che possono avere un qualche speranza di successo. E quale potrebbe essere una, secondo lei? Sono tante, nel senso che quando Vetturi dice le recinzioni elettrificate, sono parte della soluzione. Ma da sole non basteranno mai, perché sposterebbero semplicemente il problema spazialmente. Già mi scrivono che nelle vigne del Trentino se le fanno a spese loro le recinzioni elettrificate, qualcuno mi sta scrivendo. Sì, molti contadini si auto-organizzano, altri invece sovvenzioni da parte dello Stato o aiuti da parte dello Stato. Noi dobbiamo mettere in campo una pluralità di soluzioni, che sono le recinzioni elettrificate, che sono l'incremento degli abbattimenti, ma fatto sotto certe regole, senza parlare di sterminio. Voi perché parliamo di sterminio per un piano della Toscana che in 3 anni prevede di abbattere 200.000 animali, quando ogni anno 300.000, 400.000, forse anche 500.000 di animali vengono Guardi, io ho citato il termine sterminio perché era quello nei cartelli dei signori vestiti da cinghiale in centro a Firenze. Non considero lo sterminio l'abbattimento dei cinghiali. Lo sterminio è un termine usato per esseri umani di solito, certo. Tristemente. È un abbattimento massiccio necessario. Cioè, io credo questo, se posso dire, anche raccogliendo un po' gli spunti degli altri invitati. Ha ragione quando Vetturi dice la caccia non è la soluzione del problema, perché se no l'avremmo già risolto. Abbiamo parlato in quel convegno del 1° dicembre organizzato anche da me, dalla mia associazione teriologica italiana, però i cacciatori come altri soggetti sociali possono diventare parte della risoluzione del problema. C'è però bisogno di un passaggio cruciale, cioè una sorta di patto sociale nella quale ogni soggetto per la sua parte contribuisce alla risoluzione del problema. Perché i cacciatori non hanno risolto il problema pur abbattendo così tanti animali? Perché è loro interesse mantenere gli animali presenti per poterli abbattere. Okay? Questa è una cosa importante. Noi allora dobbiamo fare un patto anche col mondo venatorio, ma anche col mondo ambientalista animalista, che col suo pungolo critico, che secondo me dovrebbe caratterizzarsi in futuro per una maggiore tecnicità delle soluzioni che propone, perché altrimenti ci dicono cose e ci propongono cose che non sono fattibili. Noi dovremmo stipulare un patto sociale. In allora, Andrea Monaco, fermiamo un istante a dare la linea alla borsa. Mi sembra aver capito, e riprendo fra un istante con lei, che la soluzione sarebbe una soluzione tecnica integrata in cui siedono allo stesso tavolo gli ambientalisti, i cacciatori, gli amministratori, i rappresentanti, e scelgono una soluzione integrata e fatta di tanti pezzi, in cui però l'ideologia deve scomparire totalmente. Non è una questione ideologica, ma una questione pratica, cosa più difficile in Italia da fare anche sui problemi molto più complessi dei cinghiali. Ci fermiamo un istante. Melog, Cronache Meridiane. Alessio, buongiorno. Alessio. Sì, buongiorno. Velocemente, da dove chiama lei? Chiamo dalla provincia di Pisa, sono agricoltore, ho una vigna e mano a mano negli anni la presenza di cinghiali nei miei terreni è aumentata. Il recinto elettrificato non serve perché lo sfondano. Ho alzato barriere di tutti i tipi, costose e con risultati alterni. Perché il cinghiale, diciamo la verità, gli fa un baffo il filo elettrico. Quando arriva veloce, a tempo che è passato, il filo è bello che è saltato, o sbaglio? Sì, sì, cioè perché poi alla fine è un filo, non è un cordone, è un filo. E purtroppo, dal mio punto di vista, l'unica soluzione è l'abbattimento, anche perché sono anche un sostenitore della LAV, contribuisco periodicamente perché sono anche animalista, però il problema è che non propongono altre soluzioni e non sembra che ce ne siano allo studio tante altre, perché qualsiasi altra soluzione è un costo. Beh, per capisce me, che Bollani e Panariello sono, uno è un grande musicista, l'altro è un notevole comico, perlomeno popolare, ma non credo si intendano molto di limitazioni cinghiali. Il fatto di continuare a proporre la sterilizzazione col mangime e le bestie feroci, vediamo che non è quella la soluzione. Abbiamo adesso al telefono Marco Remaschi, buongiorno. Buongiorno a voi. Marco Remaschi è colui che ha scatenato questa protesta di piazza con i cinghiali in pelliccia, con i cartelli al collo a Firenze, è assessore all'agricoltura della regione Toscana. Vediamo di capire, diciamo che abbiamo già in qualche maniera sviscerato il problema, abbiamo capito che quello che hanno detto in piazza l'altro giorno è inattuabile. Non esiste il mangime sterilizzante, non esiste l'immissione sul territorio di lupi, tigri, elefanti, non so che altro, per fermare questi cinghiali. Come gestirà questa patata bollente in questo momento? Ma guardi, intanto la proposta di legge, noi in giunta ne abbiamo parlato, l'abbiamo discusso, l'abbiamo approfondita e valutata anche con organismi scientifici prima di inviarla al Consiglio, l'abbiamo approvata il 3 di novembre del 2015. Giustamente la commissione consiliare ha fatto tutte le verifiche, gli approfondimenti con le consultazioni e le audizioni di tutti gli stakeholder che sono interessati. Sarebbero gli agricoltori, gli abitanti. Gli agricoltori, anche chiaramente il mondo animalista, chiaramente il mondo scientifico, chiaramente il mondo dell'agricoltura. Quindi non è che è stato, diciamo, un editto per lo sterminio di massa, come vorrebbero farlo passare. Ma no, chiaramente ci sono posizioni diverse che sono legittime. Da cosa nasce questa proposta di legge? Intanto è una legge obiettivo della durata di 3 anni e già questo la dice lunga. Vuol dire che c'è un problema. Io sono assessore dal 1° di luglio, questo problema l'ho trovato, me ne sono, diciamo, reso perfettissimamente conto e in qualità di responsabile, voglio dire, del caccia, pesca e anche agricoltura, ho steso un provvedimento che mi sembra quello più logico di fronte a un'emergenza, perché vorrei ricordare che la presenza degli ungulati in Toscana è 4 volte superiore alla media nazionale. Su questo, questo l'abbiamo capito, no, tutti, penso che l'hanno capito anche gli artisti intellettuali. Però lei come si spiega un'azione così massiccia? Io vedo in questa foto sul Corriere 15 persone, tutte 15 con il costumino marrone da cinghiale, tutti con la maschera uguale, tutti col cartello "anche noi amiamo i nostri cuccioli". Una sfilza di intellettuali, da Dacia Maraini a Battiato, a Bollani, a Panarello, non è un intellettuale però è un personaggio, Lombardi Vallauri che è un filosofo, cioè questi, come gli è venuto in mente di mettersi in questa roba qua, e qual è la soluzione? Non glielo so dire, guardi, io ma cosa c'è dietro? C'è un'azione politica? Io ho incontrato migliaia di persone dal mondo dell'agricoltura, quindi degli agricoltori, persone che fanno produzione, che fanno diciamo manutenzione del territorio. Sì, ma chi è che gli ha armato contro? Diciamo, allora glielo dico diversamente, chi è gli ha armato contro questo casino mediatico e qual è lo scopo? Sicuramente il mondo animalista, che vede in questa legge una legge che non è confacente rispetto a quelli che sono i principi del mondo animalista. E però finora non ho sentito una soluzione alternativa. A me pare che le soluzioni alternative che siano state presentate non siano soluzioni attuabili. Io sono aperto al confronto per trovare qualsiasi tipo di soluzione, purché siano attuabili. Teniamo anche conto che oltre ai danni in agricoltura e quindi tutto questo tipo di aspetto, ci sono danni ai cittadini toscani, perché basta parlare con i sindaci, con le istituzioni, basta pensare che dal 2013 ad oggi sono notevolmente aumentati gli incidenti stradali. E questo è chiaro, per strada attraversano. Qualcuno peraltro anche mortale. Ma questo che sia il problema. Allora, vediamo se riesce a dirmi l'assessore Maschi in una battuta. Cosa accadrà adesso? Voi procederete senza sì, senza ma, comunque sia? E quale sarà la prima azione reale e concreta che avverrà? Qual è il sistema, diciamo, per provare a risolvere un problema che abbiamo capito che è complesso? Non si risolverà certo in un'azione unica, ma quale sarà la prima mossa? Una volta che il Consiglio regionale avrà approvato, diciamo, questa legge, vediamo se apporterà delle modifiche rispetto al testo approvato dalla Giunta, metteremo in campo tutti quelli che sono i provvedimenti previsti dalla legge, che vuol dire allungare, diciamo, il periodo della caccia mediante interventi. Perché solo 3 mesi, mi pare, vero? È solo 3 mesi. 90 giorni che sono stabiliti dalla legge. Nazionale. E quindi ci sarà più tempo di caccia, sì, poi? Più tempo di caccia, ma in controllo e in selezione. Chiaramente laddove ci sarà bisogno di intervenire, laddove verranno avvistate, diciamo, popolazioni di ungulati che possono provocare danni all'agricoltura e anche incidenti ai cittadini, dovranno essere fatti interventi, diciamo, mirati che permettano una riduzione, diciamo, per riportare la media degli ungulati nella media nazionale, anche in Toscana. Questo è quello che chiediamo. Poi chiaramente potranno al tempo stesso essere messi in campo anche una serie di altri procedimenti che tendano, diciamo, a fare questo percorso. Però oggi io non vedo che il percorso degli abbattimenti, mi creda, confrontato con tanti soggetti, ma questa è l'unica risposta possibile. Allora vorrei far chiudere, perché non dare un senso a senso unico alla trasmissione, a Massimo Vetturi, che è responsabile della LAV. L'opinione che mi sono fatto io, ascoltando tutte le persone, è che non esista altra soluzione che comunque cominciare a provvedere. Alla luce di quello che si è sentito, di quello che gli esperti hanno detto, continuerà secondo lei la battaglia? Ci saranno le persone vestite a cinghiale che si stenderanno per terra per non far fucilare i cinghiali, o vi siederete a questo tavolo e riuscirete anche voi a dare una mano perché il problema sia risolto? Purtroppo la battaglia continuerà, ma vedrà un altro fronte, il fronte della Toscana. Lei si immagini migliaia di cacciatori in Toscana che partono alla ricerca di cinghiali da ammazzare con fucili che sono fucili simili a quelli da guerra. Teniamo presente che ogni anno la caccia fa qualcosa come 15-20 morti a livello nazionale. Ma allora scusa, ritorniamo al punto, ma allora cosa fareste? Già questo sta accadendo. Allora, io purtroppo mi spiace sentire da Monaco, che lo sa, che il controllo della fertilità sui cinghiali esiste, però deve essere affinato. Effettivamente sono d'accordo con lui che in questo istante non sia applicabile, quindi sarebbe molto interessante che la regione toscana, se da una parte vuol procedere con la sua legge obiettivo per uccidere 250.000 fra cinghiali e caprioli, dicesse allora metto da parte anche un fondo per destino del denaro per affinare questo vaccino che esiste e che ha bisogno ancora di essere però chiudiamo perché la sigla ci porta via. Trovo qualche perplessità, ritornerò sull'argomento. In un paese in cui ancora c'è dei dubbi per vaccinare gli esseri umani, che si parli del vaccino per cinghiali, è un paese in cui le donne ancora muoiono di parto negli ospedali, che si pensi a un siero per fermare la sterilizzazione delle cinghialesse, mi lascia qualche dubbio, ma su questo sono pronto a riprendere l'argomento. Alla prossima.